Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e dieci minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, devo dire molte reazioni anche oggi al rischio, perché le decisioni prese oggi da Donald Trump firmerà due ordini esecutivi sul commercio. Il primo avvierà un'ampia revisione del deficit commerciale statunitense per identificare eventuali forme di abusi commerciali che avessero contribuito a creare tale deficit. Il secondo invece avrà lo scopo di rafforzare le regole dell'antidumping e della loro applicazione, per impedire che le aziende straniere facciano concorrenza sleale a quelle americane. E poi continua l'amministrazione Trump a valutare l'ipotesi di dazi. Ne abbiamo parlato a lungo ieri. Va detto che in questo caso, allora, chi vi parla è sempre stato molto scettico, per essere eufemistici, con l'ipotesi del neoprotezionismo. Non è con il neoprotezionismo che trasformi un paese in maggiore competizione, a essere più competitivo. Altra cosa è bloccare il dumping, cioè chi produce sotto il livello di costo, o chiedere alcune quote e soprattutto una reciprocità. L'esempio su tutti l'ha fatto oggi Mario Platero, ricordando quello che non avverrà nell'estrazione di carbone dei Monti Appalachi. Cioè, tu puoi anche tornare a utilizzare il carbone, ma se il resto dell'industria si è spostata su produzioni più verdi, più green, se il prezzo di estrazione del carbone comunque è fuori mercato, l'imprenditore continuerà a usare l'approvvigionamento precedente. Non gli puoi chiedere di spendere di più e ridurre gli utili solo per comprare carbone americano, con la conseguenza che, tra l'altro, l'industria americana del green, delle fonti rinnovabili, che tuttora è anche all'avanguardia, rischia di perdere terreno a favore di quella cinese, che si sta molto spingendo e molto stanno investendo i cinesi sulla parte verde. Perché lo dico? Perché poi la differenza tra lo slogan populista e l'effetto concreto economico va valutata. Allora, tirare su le barriere pensando che questo renda più competitive le tue imprese non ha mai funzionato. Altra cosa però è quando l'America ha ragione, o meglio Trump ha ragione. Nel caso della vicenda che preoccupa molto noi italiani, perché siamo esportatori negli Stati Uniti e in particolare sui prodotti dell'agroalimentare, ma non solo, qui c'è una colpa, come ha spiegato molto bene ieri il presidente Federalimentare Luigi Scodamaglia ai nostri microfoni, dell'Europa. Cioè, noi avevamo firmato un accordo con gli Stati Uniti ai tempi ancora di Barack Obama per l'importazione ulteriore di 40.000 tonnellate di carne non con gli ormoni, quindi hormone free, accordo che non abbiamo, per compensare il fatto che invece mettiamo il blocco a tutta la carne americana prodotta con gli ormoni, che è la grande maggioranza. Ora, siamo stati noi a non rispettare questo accordo come europei e a dare la possibilità di avere una quota dazio zero anche alla carne argentina e alla carne brasiliana, e giustamente gli Stati Uniti hanno in mente una ritorsione. Ci vorrebbe poco per sminarla, ma tant'è. Oggi molte dichiarazioni su questo tema, sia da parte del Presidente del Consiglio Gentiloni sia da parte degli addetti al settore. Mi riferisco anche al presidente di Confindustria Boccia, al presidente di Confcommercio Sangalli. Ascolteremo questo. Per quello che riguarda invece la classifica, confermo a chi me lo chiede, c'è la classifica, c'è, riguarderà anche alcune notizie di questa settimana. E invece per quello che riguarda la borsa, più 0,40% Milano, più 0,30% Parigi, più 0,30% Francoforte, meno 0,17% il Dow Jones e meno 0,40% Londra. Tra i titoli che vanno particolarmente bene oggi segnalo Buzzi Unicem più 3,20%, Campari più 3%, Banca Generali più 2,20%, Italgas più 1,90%, Banco BPM più 1,70%, Terna più 1,40% come Azimut, Snam più 1,1% come A2A, l'1% lo guadagna Prismian e Unicredit. Il fronte opposto è Mediobanca meno 1%, Leonardo Finmeccanica meno 0,97%, meno 1%, Unipol meno 0,80%. Tra i titoli Oggi che vanno meglio in assoluto, Friendly Energy meno 10 è il peggiore e Bioera più 14 è il migliore. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, sì, qualcuno mi dice, guardi che l'accordo coinvolgeva anche il continente americano, non solo Nord America, ho capito, ma quello era un accordo compensativo, un accordo preso con gli Stati Uniti. E quindi, e come tutti stanno spiegando in queste ore, in questi giorni, il danno sarebbe di gran lunga peggiore, visto quello che è il nostro export negli Stati Uniti, visto il danno che già c'è negli Stati Uniti perché non riusciamo a fare riconoscere l'origine dei prodotti, perdiamo 20 miliardi di anno negli Stati Uniti per l'agroalimentare con l'Italian Sounding, ho scoperto oggi grazie a Coldiretti che c'è anche il San Marzano taroccato coltivato in California, oltre che un insieme di prodotti che a volte fanno anche ridere, ma in realtà ci sono etichette di Chianti, tutti i prodotti in America, negli Stati Uniti, Valpolicella, Frascati, Primitivo, Gewurztraminer, Barolo, Verdicchio, Lambrusco. E insomma, tra l'altro il Fontiago, eccolo qua. Cos'è il Fontiago? È una specie di miscuglio tra Fontina e Asiago, che però viene venduto come italiano, come se fosse italiano negli Stati Uniti. E poi l'Asiago, il Gorgonzola, il Parmesan, il pecorino romano senza latte di pecora, di tutto. Insomma, quindi oltre a quello c'è anche il rischio sui prodotti originali italiani dei dazi. Ancora andiamo avanti con le dichiarazioni, poi ricorderemo tutte le dichiarazioni dei vari esponenti, Trump, Gentiloni, ho visto anche Oscar Farinetti perché dice sostanzialmente farebbe più vittime di una terza guerra mondiale, questa, una guerra dei dazi, per l'Italia sarebbe un disastro, ma su la questione della carne, duole dirlo, ha ragione Trump. Ancora sulla Brexit, nuovi aggiornamenti, Londra non potrà scegliere solo le parti migliori, deve onorare gli impegni, questa è la posizione dell'Unione Europea, niente negoziati sui singoli stati, il nostro obiettivo è un'intesa ma nulla resta escluso. E poi il popolo di Scozia, invece scrive la prima ministra scozzese Nicola Sturgeon, il popolo della Scozia deve avere il diritto di scegliere il proprio futuro. E poi invece l'EBA, l'autorità bancaria europea, è probabile che si sposterà a Francoforte, lo ha detto Michael Fuchs, esponente di spicco della CDU di Angela Merkel. Nel frattempo, visto che parlavamo di Germania, oggi un altro dato che conferma come, diciamo, questa Europa va sicuramente bene, quest'area euro va sicuramente bene alla Germania, agli altri paesi meno. I disoccupati sono a minimi storici, il tasso è al 5,8%, 600.000 occupati in più in un anno. L'inflazione nell'area euro ancora giù invece a marzo all'1,5%, dovrebbe essere questo il dato, visto che stiamo parlando della stima di Eurostat. È importante il dato perché se l'inflazione a marzo non dovesse proseguire questa lenta ma continua crescita che ha avuto in questi mesi, sarebbe importante perché darebbe, come abbiamo spiegato molte volte, alla Banca Centrale Europea di Mario Draghi un elemento in più per continuare a tenere i tassi bassi, perché quando l'inflazione poi arriverà in maniera stabile intorno al 2%, Draghi ne dovrà prendere atto e non avrà più, non tanto per la pressione tedesca, ma insomma non avrà più l'elemento inflazione per poter giustificare, nonostante la pressione tedesca, un mantenimento dei tassi bassi. In Italia, anche in Italia, l'inflazione rallenta all'1,4% contro l'1,6% di febbraio, sempre rispetto a un anno prima, sempre i prezzi al consumo. Frena però anche il cosiddetto carrello della spesa, cioè i beni a maggior utilizzo, più 2,3% l'inflazione contro il 3,1% di febbraio. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, oggi a firma del vice direttore Alberto Orioli. Ricordo che sono trasmessi anche su RDS. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. L'inflazione di Eurolandia si prende una pausa. A marzo i prezzi al consumo sono saliti dell'1,5% annuo, con una velocità inferiore rispetto a febbraio e anche al di sotto delle migliori attese degli analisti, che avrebbero scommesso su un più 1,8%. La prima conseguenza di questo dato è politica, nel senso che si allenta un po' la morsa tedesca e dei paesi del nord Europa verso la BCE, che avrà nuovi argomenti per non accelerare l'uscita dalla politica monetaria espansiva, che ha come obiettivo quello di far salire l'inflazione a un tasso vicino e al di sotto del 2%. Gli economisti della squadra di Mario Draghi hanno sempre predetto un calo dell'inflazione nella seconda parte dell'anno, motivando così la necessità di non chiudere troppo presto il rubinetto della liquidità. Il dato di marzo conferma questa intuizione, soprattutto perché non è solo il riflesso della volatilità dei prezzi dell'energia legati ai corsi del prezzo del petrolio, ma anche la stessa inflazione core, quella cui guarda la BCE per azionare la leva dei tassi, si è raffreddata ed è salita dello 0,7% contro lo 0,9% dei tre mesi precedenti. L'indice dei prezzi dei beni industriali è risultato in aumento dello 0,2% come a febbraio, un livello ancora troppo basso, è il minimo da aprile 2015, perché la BCE si possa dire soddisfatta. Nella sostanza il quadro è ancora debole e segna che la ripartenza dell'economia in Eurolandia non si è ancora consolidata. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. La classifica della settimana. Allora, iniziamo con la classifica. Devo dire una cosa, non rientra mai il settore privato nella classifica, lo dico proprio a titolo informativo, però vedere che anche quest'anno la fonte è Trivago, il portale per acquistare prenotazioni online alberghiere, in occasione del Salone del Mobile, i prezzi degli alberghi a Milano stanno facendo più 156% rispetto alla settimana precedente. Uno dice, è il mercato, bellezza, per carità, attenzione perché è comunque anche un 5% rispetto all'anno scorso, attenzione, l'abbiamo detto molte volte anche con gli esponenti di Federturismo, a utilizzare il turista solo come selvaggina da passo, e soprattutto attenzione perché poi parte sempre la polemica con gli Airbnb. Giusto, richiamo la legalità, che abbiano le stesse regole che hanno gli altri, ma non vi lamentate se poi gli Airbnb fioriscono come funghi, perché un albergo che una settimana prima costava, o meglio che la settimana dopo fa il più 156%, non ha migliorato le sue strutture e la sua accoglienza. Ora capisco benissimo, è la legge del mercato, ma questa è la legge del mercato, certe cifre di rialzo, pensate che Trivago stima che in media una doppia costi durante la settimana del Salone del Mobile 460 euro. Però adesso andiamo alla nostra classifica e partiamo dal quinto posto, dove io saluto, potevamo anche invitarlo, però diventava forse un po' troppo stucchevole, ma lo saluto veramente perché è un collega molto bravo, ex collega giornalista della RAI, anche lui si è sempre occupato di economia, si chiama Riccardo Venchiarutti, per chi non lo conoscesse, è attualmente sindaco di Iseo. Voglio partire con una buona notizia, perché poi oggi la giornata è abbastanza pesantina sulle notizie, perché la stessa osservazione del suo rincaro prezzo eterno la fa anche sui voli aerei. No, ma infatti io ho detto è il mercato, adesso però non voglio parlare degli hotel, è il mercato. Dopodiché, così come sulle compagnie aeree, non vi lamentate se uno utilizza low cost o i treni, attenzione per quello che riguarda invece gli alberghi, che questo stimola poi rialzi ingiustificati anche nonostante la richiesta, possono spingere a forme alternative. Tutto bene, basta saperlo. Volevo tornare invece sul collega attualmente sindaco del paese di Iseo, 9.000 abitanti, chi non lo conoscesse, sul lago di Iseo, tra collina e lago, 9.000 abitanti. Perché vorremmo fargli complimenti e partire una volta tanto con un caso virtuoso? Perché lui ha rinunciato, non voglio che sia il modello per tutti, è solo l'esempio che tu dai. Allora, intanto il comune di Iseo nel 2009 aveva debiti pari a 18 milioni di euro, adesso sono ridotti di un terzo, a 6 milioni. Ha recuperato 850 mila euro di evasione fiscale, ma per dare l'esempio ha detto, scusate, siccome lui, sindaco, ha fatto giornalista economico, il suo vice è un commercialista, l'assessore ai servizi sociali è una logopedista, il titolare della pubblica istruzione è un insegnante, cioè pazzesco, ogni consigliere più o meno c'entra col lavoro che fa, un po' come il nostro ministro dell'istruzione, non ce la facevo non farlo, no? Ognuno è competente sulla sua cosa e diceva, visto che sono tutte materie di cui noi abbiamo già una competenza, rinunciamo allo stipendio. Certo che deve avere la competenza per fare questo ragionamento, ma non voglio dire che i sindaci devono rinunciare allo stipendio. Certo che poi c'è sindaco e sindaco. Il sindaco di un paesino di 9.000 abitanti fa un lavoro molto più di prossimità rispetto al sindaco di una grande area metropolitana, che non giustifica però quello che stiamo raccontando da anni su sindaci delle volte, presidenti di regione, consiglieri, e anche oggi ce n'è. Allora, lui si è levato lo stipendio, si è levato anche il vice sindaco, prendeva 2.600 euro al mese all'ordi, il vice sindaco 1.300 euro, gli assessori 1.040 euro, però fatta la somma per 4 anni arrivano a risparmiare 270.000 euro. La cosa che io ritengo più che virtuosa, al di là dei populismi, è che questi soldi verranno, con questi soldi si finanzierà uno specifico capitolo chiamato Nuove Povertà, e quindi le famiglie del comune di Iseo che sono in sofferenza avranno un aiuto molto concreto, verranno pagate le bollette delle utenze, luce, acqua, gas, riscaldamento e anche altre forme di assistenza sociale. È vero che poco, è vero che 240.000 euro sono pochi in 4 anni, è vero che però sono 9.000 abitanti, che immagino, conoscendo un pochino l'area, non siano tantissime le famiglie in difficoltà, e che comunque questi soldi, 60.000 euro l'anno, arrivano direttamente dai loro cittadini, i primi cittadini. Dopodiché un plauso secondo me va anche alla formazione della giunta, incredibilmente ognuno messo lì in base alla sua esperienza precedente. Alcuni mi fanno notare che anche a Colonia durante le fiere aumentano i prezzi, lo so, non so, ho detto solo attenzione, quello è dato. Andiamo comunque al quarto posto, e qui invece torna, diciamo, l'acidità di stomaco. Allora, per fortuna lo hanno per carità, ognuno è innocente fino alla colpevolezza definitiva, però è in stato di fermo per ordine del PM Ida Frongillo nell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Alfonso Davino, stiamo parlando di Napoli, scusatemi, non l'avevo detto. È in stato di fermo Vittorio Gargiulo. Oh, chi era Vittorio? Chi è Vittorio Gargiulo? È stato segretario amministrativo dell'Istituto Ambiente Marino Costiero del CNR. Oh, a Napoli, dice, importante come ruolo, Istituto Ambiente Marino Costiero del CNR, ti occupi, insomma, della sostenibilità ittica, dei parchi marini, delle ricerche, insomma. Allora, in 4 anni è accusato di essersi appropriato di 1 milione di euro sottratti alle casse del CNR. Il provvedimento d'urgenza che l'ha posto agli arresti è scattato perché, secondo quanto ha scoperto la Guardia di Finanza, l'indagato, che aveva già subito 2 perquisizioni, era in procinto di andare all'estero, si stava trasferendo in Inghilterra, occhio alla Brexit, però adesso ancora si può fare. L'inchiesta è partita dopo la denuncia presentata dal direttore generale del CNR, che aveva cosa è successo? Il direttore generale del CNR si vede arrivare una fattura riferita a una consegna da 32.000 euro contabilizzata come materiali di consumo di laboratorio, e fin qua va bene, solo che questi materiali di consumo di laboratorio non arrivavano, cioè la consegna non arrivava al CNR, all'istituto, arrivava alla residenza stessa di Gargiulo, perché vedi, a forza di rubare, questa è la presunzione, poi uno ha anche il senso dell'impunità, E qua mi fermo. Allora, questi 32.000 euro erano contabilizzati come materiali di consumo di laboratorio. Sapete cos'erano? Erano giostre e giochi gonfiabili, visto che lui esercitava, parallelamente al lavoro di segretario amministrativo dell'Istituto Ambiente Marino Costiero del CNR, anche un'attività di intrattenimento per bambini, non meglio specificata. A parte che a casa mia si chiamerebbe doppio lavoro, ma... Ma poi che vuol dire attività di trattamento dei bambini? Aveva un asilo nido, non so, aveva un intrattenimento post scolastico, pomeridiano. Comunque, 32.000 euro di giostre e giochi gonfiabili, beh, Peter Pan. Allora, poi la Guardia di Finanza va a vedere e scopre che ha utilizzato, cito solo le cose più veloci, perché per arrivare a 1 milione di euro stiamo qua 2 giorni, 11.000 euro utilizzati per... Dunque, la voce era ripristino locali interni dell'istituto. Sapete che ha fatto? Si è ristrutturato la casa con una vasca idromassaggio. E meno male che erano i locali, ripristino locali interni dell'istituto. 40.000 euro per studio e progettazione di tenda jack-up. Che cos'è la tenda jack-up? È il quesito che ho per voi prima del meteo. La tenda jack-up. Jackpot, ancora ci arrivavo, visto il personaggio, ma jack-up, boh. Che in realtà sono finiti nell'acquisto di teloni e tende per uso personale. Ma che, 40.000 euro di teloni e tende? Ma questo forse è un campeggio per bambini. Forse tutto torna a questo punto. Non l'idromassaggio, però. Allora, altri 16.000 euro di mobili fatti... questo è il massimo. Questo è comprato comodini, letti, armadi, ante. Li ha messi sotto la voce campagne oceanografiche. Ma ti devono venire i capodogli e le orche assassine a parlare la prima volta che ti tuffi, Gargiulo? Qualche squaletto, si tende a dire così, in maniera metaforica. Comunque, 16.000 euro di mobili fatti figurare come campagne oceanografiche. Ci sono gli oceanografi di tutto il mondo che si interrogano come cavolo fai a fare una campagna con un armadio, con una mensola. Poi 500.000 di euro di materiale informatico classificato come cancellerie e materiali d'ufficio. Vabbè, però 500.000 euro di cancellerie e materiali d'ufficio. In realtà lui lo rivendeva a terzi, qui arriviamo veramente al massimo, lo rivendeva a terzi che lo rimettevano sul mercato online. Poi altre spese riguarderebbero acquisti fittizi presso ditte di commercio all'ingrosso di saponi, detersivi, frutta, verdura, prodotti scolastici giustificati da varie motivazioni e pagati dall'istituto con bonifici in parte poi riaccreditati sui conti da soggetti ritenuti compiacenti. Tra l'altro i finanziari hanno anche rinvenuto un televisore e giochi gonfiabili considerati oggetto di appropriazione e poi anche concussione ai danni di un'impresa. Comunque guardate che il signore non solo si arredava la casa, la jacuzzi con le campagne oceanografiche, la faccia dei capodogli delle balene, degli squali, delle orche, ma soprattutto riusciva a gestire un'attività parallela con i bambini, intrattenimento per bambini. Pensa che bel modello per questi bambini. E poi rivendeva quanto comprava e si faceva dare parte del rivenduto, o comprava e poi girava una parte dell'acquisto del bonifico a chi gliel'aveva venduto. Chissà poi cosa c'è sotto, perché certo poi uno si deve chiedere: ma come fa l'amministrazione del CNR a pagare frutta, verdura, saponi, detersivi, prodotti scolastici, 40.000 euro di tende, teloni? No, e dire vabbè, tutta roba per il CNR. Va bene, se qualcuno sa cosa è la tenda jack-up me lo dica. Intanto andiamo sul meteo e la pubblicità, poi terzo, secondo e primo posto. Focus Economia. Allora, non vi dico cosa è successo nel frattempo con il CNR di Napoli. Qualcuno mi dice, vabbè dai ragazzi, non diventiamo volgari, che l'idromassaggio serviva per le mamme dei bambini. No, diciamo che richiesta più forte, visto che si occupava, era segretario del CNR, per dell'Istituto Ambiente Marino Costiero del CNR, segretario amministrativo, l'ispirazione più forte che arriva, forse la possiamo sintetizzare così: chi ha una certa età, sì. Prima versione, seconda versione, terza versione. Ecco, se lui ci sono molti ascoltatori che si augurano che tuffandosi nel Golfo di Napoli arrivi Joshua. Come si chiamava? Joe's, come si chiama? Non mi ricordo più in inglese. Vabbè, nessuno mi ha saputo dire che cos'è la tenda Jack Up da 40.000 euro, finito nell'acquisto del signore. Ma adesso ritorniamo con un Tareg Q e andiamo al terzo posto. Oh, qui la situazione si fa sempre più seria, più seria la classifica. Allora, sta indagando Raffaele Cantone, ossia l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Nel mirino ha messo tutte le gare bandite dalle aziende sanitarie provinciali siciliane, perché non manca mai la Sicilia in sta classifica, dal 2005 oggi, per l'assistenza integrata domiciliare agli anziani, ai malati gravi e ai disabili. Sapete che poi ce ne siamo occupati anche noi, mancavano i fondi per le disabilità. Allora, cosa ha scoperto Cantone? Che non solo la grande parte delle gare che le varie aziende sanitarie provinciali davano, dicevano, venivano vinte da un solo consorzio, si chiama Sisifo, è legato alla Lega delle Cooperative, che ha avuto già molte attività nell'accoglienza dei migranti, dal CARA di Mineo all'ex centro di prima accoglienza di Lampedusa. Ma si è anche accorto Cantone che, oltre che vincere quasi sempre Sisifo, che in questo caso contraddice il suo nome, perché Sisifo è la fatica di Sisifo, questa è in discesa, il masso rotola da solo giù, mica lo devi spingere e ricade ogni volta. Ma non solo le vinceva quasi sempre il consorzio Sisifo, ma che le aziende sanitarie della Sicilia in questi 10 anni hanno bandito, mamma mia che strano, pochissime gare. In molti casi, scrive, un improprio ricorso alla proroga contrattuale, cioè per non fare la gara dai una bella proroga. Si è riscontrato un aumento della durata contrattuale delle pari a 4 volte quella iniziale. Ad esempio, una gara vinta per 2 anni veniva prorogata di volta in volta per 8 anni. E un incremento dei costi complessivi pari in alcuni casi a 12 volte quella iniziale, cioè da 2 a 24 milioni. Allora, Sisifo non è oggetto di indagine, precisa Cantone, perché il problema non è di Sisifo, è delle aziende sanitarie provinciali siciliane che non bandiscono le gare o le bandiscono in maniera considerata non ortodossa da Cantone. Allora, l'autorità ha fatto le pulci a tutte le gare bandite dalle aziende sanitarie provinciali. Messina, dal 2006 l'azienda sanitaria provinciale di Messina, dal 2006 al 2015 ha bandito solo 3 gare, 3, una ogni praticamente 3 anni. Di cui 2 per il servizio di assistenza ad anziani e disabili e 1 per l'assistenza ai malati oncologici. Chi ha vinto le gare? Sempre Sisifo, da solo o in associazione temporanea con altre cooperative. La prima gara, dal valore di 5 milioni, doveva avere una durata triennale, 3 anni, viene prorogata fino a 9 anni, vuol dire 3 volte tanto. Il costo passa da 5 a 27 milioni, senza che vi sia mai stata la possibilità di vedere se qualcuno offriva un servizio simile ma un costo più basso. Una seconda gara da 40 milioni è stata vinta sempre da Sisifo. Alla SP di Trapani in 10 anni sono riusciti a bandire soltanto 2 gare valide. Alla SP di Agrigento 1 gara. Chi l'ha vinta? Vediamo se indovinate. Sisifo, con il consorzio di cooperative sociali di Catania e OSA di Roma. Anche alla SP di Caltanissetta in 10 anni viene bandita 1 sola gara, mi raccomando, che sennò ti ammazzi di fatica, e va sempre in proroga. E chi vince quest'unico bando? Dai, risposta facile, Sisifo, con un ribasso del 71%. E tra l'altro l'ANAC Cantone dice, insomma, c'è un'evidente anomalia nei tali ribassi, ma come vai a vincere una gara con un ribasso del 71%? All'ASP di Palermo in 10 anni fanno una sola gara e chi la vince? La RT OSA / Sisifo. La società ha prodotto comunque un dossier all'ANAC chiedendo di archiviare l'indagine. Abbiamo vinto gare pubbliche in totale trasparenza e a tutti ricordo, dice il presidente della Sisifo, Domenico Arena, che noi raccogliamo cooperative storiche del settore, in questo momento stiamo partecipando alle gare della SP di Caltanissetta, di Siracusa ed Enna, tutte le avete fatte mi sembra, no? Noi non siamo oggetto di indagine, ed è vero, Siamo stati anche premiati con il miglior bilancio sociale dalla AIRCES, Associazione Italiana Revisori Legali dell'Economia Sociale. Siamo un grande gruppo che dà lavoro a 1.400 professionisti e ha un fatturato da 50 milioni. Siamo un vanto in Sicilia. Ma non, io non metto in dubbio, vorrei solo vedere delle gare. E nelle gare, insomma, per carità, gare vere in cui ogni tanto vince uno, ogni tanto vince l'altro. Ma Cantone infatti non ha archiviato e ha già fatto alcune segnalazioni alla magistratura. Però ha ragione Cantone nel dire che il problema sta in capo in primo luogo agli amministratori delle ASP, non all'azienda che vince la gara. Oh, andiamo al secondo posto, e qui ho bisogno di uno stacchetto nostro mitico, perché la vicenda che sto per raccontare, il titolo potrebbe essere l'Italia non è un paese per gli investimenti. Poi arriveremo anche al primo posto. Ma questa è una vicenda che, quando l'ho letta, l'ho dovuta rileggere, perché forse c'è un refuso, c'è qualche errore. Invece è tutto vero e vi racconterò come si fa a bloccare un investimento importante che produce anche posti di lavoro utilizzando, diciamo, una bolla papale del 1514. Papa al tempo Leone X. Chi siete? Siamo due che... Cosa fate? Cosa portate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Due, sia me e lui, dietro non c'è... Un fiorino. Si paga? Un fiorino. Oh, fermi. Scusi, sacco, doganiere. Scusi. Hey! Chi siete? Quello che è passato adesso col carro, c'è caduto il sacco qua. Cosa portate? Niente, quello di... Ma siamo passati proprio adesso. Stavamo qua e caduto il sacco. Sì, ma quanti siete? Uno. Adesso, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco. Un fiorino. Grazie. Hey! Chi siete? Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco. Cosa portate? Porto olive, caciotte, pane, un po' di... Sì, ma quanti siete? Uno. Io sono entrato e sono uscendo, no? Un fiorino. Cioè, uno entra e esce, cosa sbaglia sempre un fiorino. Siamo due, tre, sì. Ragazzi, arrivederci. Senta. Hey! Chi siete? Ma da spango! Cosa portate? Dunque, correva l'anno del Signore 1514, gennaio 29. Insomma, l'oggetto del nostro secondo posto è la montagna di Gualdo Tadino, bellissima città aggrappata sull'Appennino fra Umbria e Marche, dove il Medioevo è ancora lì. Perché? Allora, a Gualdo c'è una guerra che si trascina da secoli e che riguarda la comunanza agraria Appennino-Gualdese, un organismo creato nel Medioevo, se ho ben capito, dal Papa Leone X, che confiscò la terra di montagna, la segnò alla Camera Apostolica. 30 anni dopo però il suo successore fece marcia indietro. Nel 1799 la Repubblica Romana Napoleonica non decise di privatizzarle e il Regno d'Italia riconobbe in seguito ai gualdesi il diritto al dominio collettivo esercitato fin dal Medioevo dai predecessori della comunanza, il cui statuto originario a questo punto risale al 1896. Nel 1976 il comune decide di intestarsi la proprietà di questi 2.800 ettari. Che cosa è successo? C'è solo stato un errore. Il comune non ha sciolto formalmente la comunanza agraria Appennino-Gualdese. E voi dite, ma Baridoli, che se ne frega? No, no. Perché? Veniamo ai giorni nostri. C'è un impianto, e lo devo dire il nome, tanto insomma fa anche pubblicità, è l'acqua minerale Rocchetta, guarda, plin plin, quella roba lì. Bene, c'è l'acqua minerale Rocchetta, ha una concessione che scadrebbe nel 2022. In realtà a dicembre 2015 la regione Umbria di Catiuscio Marini l'ha prorogata fino al 2040. Perché? Perché ha accolto un piano di investimenti industriali per 30 milioni e mezzo di euro per ampliare l'impianto di imbottigliamento con la creazione di una trentina di posti di lavoro. Il sindaco Presciutti ha un diavolo per capello, perché adesso vi spiego che cosa è successo. La regione accoglie il piano di investimento, la Rocchetta si incarica anche di sistemare a spese sue l'area devastata dall'alluvione del 2013 mai risanata, e pagherà anche un canone annuale. progetto pronto, acqua rocchetta, non dovrebbero essere altre cose. No, un anno fa arriva un ricorso al TAR. E da dove arriva? Dal Medioevo, perché lo presenta la Comunanza Agraria Appennino Gualdese, che tutti pensavano essere scomparsa, nessuno l'aveva mai sciolta, è rinata come l'Araba Fenice, perché è bastato sostanzialmente che gli oppositori di quest'acqua, di questo ampliamento dell'impianto, facessero rinascere la comunanza nominando un consiglio la cui testa c'è Nadia Monacelli, di professione biologa, e quindi rivolgersi per farsi riconoscere al commissario liquidazione per usi civici per Lazio, Toscana e Umbria. Vi giuro che esiste il tribunale speciale istituito da Mussolini nel 1927, il quale ha confermato alla comunanza agraria appennino gualdese il diritto medievale di dominio collettivo. Ma dove vogliamo andare in sto paese? E quindi l'avvocato Nadia Monacelli deposita il ricorso al TAR contro la proroga della concessione a Rocchetta, sostenendole l'incostituzionalità. Dice, ce ne sono una serie di irregolarità e comunque c'è un impoverimento della collettività locale a causa dell'aumento del prelievo idrico. Ma quanta acqua può bere un gualdese? Gualdese si chiama? Non è che diventa notre. Tra l'altro il sindaco Presciutti è infuriato perché dice: io oggi ero con i 300 della ex Merloni rimasti senza lavoro, non sanno dove sbattere la testa. Qui mi arrivano 30 milioni di investimenti più rifacimento urbanistico con 30 dipendenti che non saranno risolutivi, ma sono sempre meglio di niente. E se quando arrivano gli investimenti gli mettiamo anche i bastoni fra le ruote, bastoni medievali, tra ruote medievali. Ma non c'entra. Perché tra l'altro c'è anche il Movimento 5 Stelle che ha già bollato il progetto di ampliamento dell'imbottigliamento e quindi anche per prelievo dell'acqua da parte della Rocchetta come un progetto inquietante. L'acqua del diavolo, ma chi se ne frega dei 5 Stelle in questo momento? La cosa incredibile è che uno riesca a far rinascere la comunanza, la voglio dire, agraria Appennino Gualdese. Dichiariamo guerra alla comunanza agraria Appennino Gualdese. Dai, traffico e andiamo al primo posto. Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta Focus Economia. Allora, vedo che qualcuno mi scrive: le ditte dell'acqua minerale sono dei ladri patentati, pagano delle concessioni da miseria per l'estrazione dell'acqua, e inoltre la politica ladra come loro prende le bustarelle sono dei ladri. Senta una cosa: se le concessioni, ce ne siamo occupati anche per le concessioni demaniali delle spiagge, sono troppo basse, si chieda di aumentare le concessioni, ma non bloccare un investimento da 30 milioni di euro per, visto che va bene, immagino, non lo so, non ho nessuna notizia, l'acqua Rocchetta e le sue vendite, no? Con 30 assunzioni, ma poi sulla base della comunanza, ma si blocca tutto in questo paese. Infatti andiamo al primo posto. And the winner is... Allora, il vincitore non ve lo dico ancora per un attimo, perché ci siamo occupati tutta la settimana della TAP e del fatto che si blocchi un gasdotto che deve portare il gas in Italia, in Svizzera, in Spagna, con il 20% di investimento di Snam Rete Gas. Guardate che Snam Rete Gas ha anche lei dei dipendenti che hanno anche loro famiglia, perché ci sono 221 olivi da spostare su 50 milioni di olivi in Puglia, con 300.000 olivi secolari, con tutto il traffico illegale che è stato fatto in questi anni in Puglia di olivi secolari, 220 olivi da spostare, rimettere lì. Adesso il sindaco di Mendugno dice: ma no, quella è solo la punta dell'iceberg, sotto c'è altro. Vabbè, c'è sempre qualcosa sotto. Per fare un tunnel che passa 10 metri sotto la sabbia per 8 chilometri ci siamo occupati, perché poi sono bloccato da manifestanti. No, gli ulivi sono sacri, il gas chi se ne frega, infatti bruceremo gli ulivi per riscaldarci questo inverno. Ma al di là di questo, che è un paese dove, che non riesce a imporre un interesse, tra l'altro c'è il Ministero dell'Ambiente, Ministero dell'Economia, Dipartimento dell'Agricoltura della Regione Puglia, tutti d'accordo, Emiliano no. Allora, io vi voglio leggere questa cosa al volo. No, no, fatemela leggere, vi prego. Allora, virgolette. Quando si realizzano grandi opere, virgola, il sacrificio dell'ambiente è quasi inevitabile, punto. Però quando un'opera è richiesta dal basso, condivisa dalla popolazione e chi la realizza la massima cura nel costruirla, qui sono stati espiantati oltre 2000 ulivi e trasferiti con grande attenzione. Questa è una grande comprensione da parte del territorio. La popolazione comprende il sacrificio che c'è da fare e ne sostiene la realizzazione, nonostante i disagi del cantiere. Il Salento non è quindi un luogo dove si può fare quel che si vuole, è un luogo dove si possono realizzare anche opere importanti. E dimostriamo così che il Salento sa sopportare anche i sacrifici ambientali. Chi ha detto sta cosa su 2000 ulivi per un'opera idrica imponente che si vede, visto che stavamo parlando di un acquedotto? L'acquedotto Simi l'ha detta, è tutto agli atti del sito. Tuttora presidente Emiliano, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione a Secli, in provincia di Lecce. Questa è la dichiarazione di Emiliano. Si parlava di 2000 ulivi. Io altro da aggiungere non ho e vi lascio al GR24. Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Fino al 13 maggio ascolta Giovani Talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava. Vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Focus Economia. E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Rispondo a alcune domande arrivate nel frattempo. Quando è che intervistate Emiliano? L'ho cercato personalmente più volte, è venuto Alessandro Milan ma per parlare della denuncia alla Consip. Quando vuole, lo dico pubblicamente, venga. A chi mi dice dovete, guardi che io ho letto la dichiarazione di Emiliano in occasione del adesso mi avete levato il foglio ovviamente, ma in occasione dell'operazione che ha portato all'espianto di 2000 ulivi per quello che era l'acquedotto del Salento, in cui dicevo sostanzialmente possiamo, allora io non capisco la differenza tra 2000 ulivi e 220 ulivi, è colpa mia. Ah, ma perché il territorio non è stato coinvolto? Ho capito, ma il territorio lo coinvolgi, ci sono state le via libera sull'impatto ambientale, poi però le cose le fai, perché se il territorio non è d'accordo in quel momento non facciamo più il gasdotto. Allora vale anche per l'autostrada, per la ferrovia, per l'aeroporto, per i porti, per sempre, tutto. E uno può sostenere, guardi, non facciamo il gasdotto, va bene, cioè, a me no, ma no, a me non è più coerente. Non vogliamo il gasdotto, perché se non è per gli ulivi è per quello che c'è sotto, per quello che hanno scoperto sotto. Alcune risposte le devo dare a chi continua a mettere, a mio avviso, sbagliando, una contrapposizione netta tra società civile, quindi collettività che ha sempre ragione, che si muove sempre su buone cause, e invece la politica o peggio ancora le multinazionali, i grandi gruppi. Allora io non sono manicheo, sbagliano le multinazionali, faccio un esempio, le abbiamo attaccate tantissimo per come pagano le tasse dove cavolo fa comodo a loro e non dove producono fatturato, un esempio su tutti in Europa, ma non è che sempre la società civile sia una vergine. Perché se no tutto quello che stiamo raccontando da anni, che riguarda anche la società civile, riguarda anche i fondi europei utilizzati in altro modo da parte dell'ultimo caso, da quello dei pescatori, ma non ci sono solo loro, e se no non dovremmo avere lo scempio ambientale che abbiamo visto anche nel nostro sud in questi anni, quella non l'ha fatta le multinazionali. Le villette nei siti archeologici non le ha fatte le multinazionali, e non dovremmo vedere, oltre a tutto questo, oltre allo scempio e quant'altro, anche una continua appropriazione di bene pubblico. Mi spiegate perché non è insorta la società civile? quando c'è stata la, la compravendita che è continuata per anni, se ne è accorta la Guardia di Finanza, degli ulivi secolari pugliesi? Comunque, David Lembo, fondatore di Panoxivir, buonasera. Buonasera, dottor Barisoni, buonasera agli ascoltatori. Allora, cos'è Panoxivir, quanti anni ha lei, quando l'ha fondata e chi l'ha aiutata? Panoxivir è una startup innovativa. Lo scopo di Panoxivir è la ricerca e sviluppo di farmaci antivirali. In particolare, noi ci proponiamo di sviluppare il primo spray nasale antivirale per la prevenzione e il trattamento del raffreddore. Io sono un professore universitario di microbiologia dell'Università di Torino, ho 53 anni e con me hanno fondato questa startup il professor Giuseppe Poli e i dottori Valeria Cagno e Andrea Cigra, postdottori, postdottorandi in questo momento. E chi vi ha aiutato economicamente? Allora, abbiamo iniziato con fondi nostri e poi abbiamo, diciamo, ottenuto una serie di premi partecipando a, a dei contest per startup. Uno è stato BioApper, vincendolo, e lì abbiamo vinto 50.000 euro. Poi abbiamo continuato sempre l'anno scorso vincendo Startup Piemonte Valle d'Aosta e poi abbiamo vinto alla fine il Premio Nazionale Innovazione, premio la Coppa dei Campioni, diciamo così, dell'innovazione. Anche lì abbiamo ottenuto un po' di finanziamenti e ci hanno permesso di iniziare. Allora, su questo, quanto state fatturando, a chi vendete e quanti siete? Quante persone avete assunto al di là dei fondatori? Dunque, noi ci proponiamo di sviluppare un farmaco, quindi il processo è molto lungo. Spesso ci chiedono quando il farmaco sarà in farmacia. Il farmaco sarà fra molto tempo. Noi stiamo iniziando tutto quel processo che porta alla sperimentazione sull'uomo. Quindi è un processo lungo e estremamente costoso. Abbiamo bisogno, per arrivare sull'uomo, di circa 7 milioni. Stiamo cercando di così affacciarsi alle realtà di venture capital per ottenere i fondi necessari. Ma più venture capital o più banche, come diciamo anche no, ieri? No, in questo, diciamo, almeno sulla nostra esperienza, in questo momento in Italia non sono le banche che fanno delle attività di questo tipo, di sviluppo di idee altamente rischiose, altamente remunerative, se funzionano. Sono essenzialmente i venture capital a cui bisogna rivolgersi. In questo momento siamo in uno stato avanzato di negoziazione, quindi siamo fiduciosi di poter partire bene con i nostri studi. Ma ci contate poi più avanti sull'appoggio anche bancario, o ritenete che per una cosa del genere bastino anche i venture capital e altri fondi? Ma guardi, per adesso l'esperienza con le banche non è stata, diciamo, quella utile. Più avanti non possiamo escluderlo. Pensiamo che sia molto utile avere dei venture capital, però che siano dedicati allo sviluppo di farmaci, cioè che sappiano di che cosa si tratta, perché anche loro contribuiscono non solo con il capitale, ma anche con, diciamo, con un expertise specifico, perché è un lungo processo e non bastano gli scienziati, ovviamente, per portare a termine. Allora, in bocca al lupo, come sempre facciamo a tutte le startup che portiamo nel programma, e quindi in bocca al lupo anche a lei. Quanto ci metterete però a, diciamo, fatturare, per dirle in maniera un po' brutale? Ma noi speriamo nel giro di 4 anni di aver, diciamo, creato un tale valore intorno al nostro brevetto da poter fare un exit importante. Io una cosa non ho capito, siete tutti medici, ricercatori di formazione? Dunque, i 4 soci fondatori siamo tutti ricercatori, però ecco, questo è una cosa molto importante. Si va avanti se il team è solido e se non è costituito solo da ricercatori universitari. Cioè, è fondamentale presidiare bene tutte le attività strategiche, quindi reclutare consulenti di alto profilo, sia nel management, sia diciamo, per personale, persone che hanno lavorato in industria, che possono portare tutta la loro esperienza all'interno di una startup. Questo è il consiglio che darei a chiunque. è bello, germogliano le idee a livello delle università, ma poi serve personale specializzato e consulenti di altro profilo per andare avanti. Allora, di nuovo in bocca al lupo a lei e ai quattro soci, tutti ricercatori. È importante quest'ultima nota, a mio avviso, cioè va bene essere ricercatore, cioè conoscere e avere competenza sul prodotto che sviluppi, ma poi ti servono competenze anche economiche, gestionali e e manageriali di sviluppo del prodotto. Adesso devo andare sul traffico, c'è qualcuno che continua sul TAP, ripeto, Emiliano, lo prendiamo quando volete. Una cosa però la devo correggere, qualcuno, continuate a scrivermi alcuni, ma perché la fanno lì quando c'è la disponibilità di un comune 20 km più a nord rispetto al comune del Salento? Allora, attenzione, perché il sindaco di Squinzano, il comune indicato dal governatore Emiliano come quello pronto ad accogliere il gasdotto, non vede l'ora di avere il gasdotto, ha detto il sindaco Mino Miccoli o Miccoli, due giorni fa: Squinzano non ha mai detto sì alla TAP. Abbiamo detto che siamo disponibili a parlarne, a patto che si proceda prima alla riconversione da carbone a gas della centrale di Cerano, che sta provocando un aumento dei morti di tumore in tutta l'area nord del Salento. Mi sembra importante. Questo, capisco Emiliano, dice il sindaco Miccoli o Miccoli, che davanti ai manganelli cerca una via d'uscita, ma con lui non c'è mai stato nessun accordo, e la nostra delibera del 25 novembre 2013 dice che siamo disponibili a dire ok a questa possibilità solo se gli aspetti tecnici lo consentiranno, premessa non da poco, e a condizione che la centrale di Cerano sia riconvertita. Lo faremo non prima, dopo. Quindi di che cosa stiamo parlando? Non lo vogliono a Melendugno e a Squinzano mettono un insieme di caveat, vedremo se gli aspetti tecnici lo consentiranno e se riconvertite Cerano. Dopodiché qualcuno mi scrive: anche la Lega Italiana Lotta Tumori in provincia di Lecce si è espressa. Vabbè, faccio notare che abbiamo altri gasdotti in questo paese: Agela, Mazara del Vallo, il Passo Gries, Altarvisio. Ma decidiamo che non vogliamo più i gasdotti, ma basta, non facciamo più nulla, non siamo più coerenti almeno. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24. Andiamo alla borsa e poi ad alcune reazioni di oggi sui timori. Non ci sono ancora i dazi minacciati e anticipati ieri dal Wall Street Journal, ma sui timori della politica protezionista di Trump. Traffico. Focus Economia. Andiamo alla borsa e poi ad alcune reazioni. Sì, io sono d'accordo con chi scrive: se anche spostassimo la TAP di 50 km, tanto vi sarebbe un altro motivo per bloccarla anche lì. Sì, io sono d'accordo. Cioè, insomma, hanno ragione i tassisti oggi. Dimmi, lei ha citato gli aumenti a Milano del 157% rispetto alla settimana prima dei prezzi degli alberghi per il salone del mobile. I taxi avranno tassametro invariato, vero? Vero. E non facciamo, mi raccomando, una rincorsa. Non so cosa ci sia sotto i 200 lire. Mi stanno scrivendo dal Parmense, dicono che c'è un gasdotto fatto molti anni fa, non se ne ricorda più nessuno, l'hanno ricoperto. Ma i gasdotti esistono in sto paese, mamma che fatica. Andiamo avanti, dai. La borsa oggi non mi sembra una gran giornata e quindi l'andrei a valutare e commentare rapidamente. Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Più 0,60% Milano, più 0,60% Parigi, più 0,50% Francoforte e Londra meno 0,60%, Leonardo meno 1,30%, Saipem meno 1,30%, Buzzi Unicem più 3, Campari più 3, Banca Generali più 2,60%, Banco BPM più 2,13%. Dicevo, giornata abbastanza piattina, scendono Bipre e Unipol che erano un po' salite, recupera un po' di terreno Piaggio, Buzzi Unicem di nuovo e Campari. Sì, per quanto riguarda Buzzi, più 3,1%, ancora la scia dei conti di ieri, ma soprattutto delle indicazioni sul 2017 di una crescita del margine operativo lordo tra il 5 e il 10%, una crescita ritenuta conservativa dagli operatori, e per questo stanno ancora spingendo il titolo, anche perché il mercato statunitense del settore cemento è già di per sé abbastanza vivace, almeno nelle prospettive, aspettando quelle che potrebbero essere le indicazioni dell'amministrazione Trump sul piano infrastrutturale di costruzioni. e quindi c'è ottimismo sul titolo. D'altro canto, bene anche Campari, ha dato vita a un paio di operazioni tecniche sui bond, quindi riacquistando dei titoli per diciamo migliorare la situazione e gli oneri sul proprio indebitamento. Ha incassato anche un giudizio positivo da Goldman Sachs, per questo oggi ha guadagnato il 3% ed è stata la migliore in una borsa di Milano che, ricordiamo, è con oggi aggiorna sì. I massimi da gennaio 2016 e dall'inizio del primo trimestre, dall'inizio del 2017, quindi nel primo trimestre che si chiude oggi, ha guadagnato il 6,5%. L'altro giorno uno studio interessante di Intermonte segnalava come sia la miglior borsa dall'elezione di Trump, con un più 25%. Beh, questa è una cosa positiva di Trump sull'Italia, visto che adesso devo far ascoltare un po' di reazioni molto preoccupate sulla guerra commerciale, anche da parte degli imprenditori americani. Intanto do i migliori e peggiori. Da questo punto di vista, il migliore è Bioera, più 12, Gambro Rosso più 12, Safebag più 6% come Panaria Group. Il fronte opposto invece è Friendly Energy meno 10,60, Nova Re meno 6,60, Ergi Capital meno 4,50%. Grazie Andrea Fontana e buon fine settimana a te e a tutti i colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore. Grazie a voi. Molti mi scrivono sul TAP bloccato, è sempre la stessa storia, o dai qualcosa in cambio al comune e l'opera non si fa. Ma guardi, che io su questo sarei anche d'accordo, si chiamano opere compensative, ma ben vengano, un po' come il caso della San Pellegrino, scusate, mamma mia che gaffe, della Rocchetta, chiedo scusa, perché lì c'erano anche le opere compensative. Le opere compensative va bene che il comune dica ok, però visto che tu devi fare questa cosa, inizia a trattare per avere anche una compensazione, visto che metti a disposizione il tuo territorio. Molti mi fanno notare che, insomma, la costruzione delle linee a alta tensione in Valtellina, in Alto Adige, in Piemonte, per l'elettricità che arriva dalla Francia, ha comportato il taglio di migliaia di alberi, ma anche le seggiovie, le funivie. Ma smettiamo di fare qualunque cosa, però è più figo sciare che pensare al gas, eh? Al vin brûlé come lo scaldi. Allora, le imprese americane, i dazi preoccupano anche le imprese americane, lo ha detto il leader delle imprese statunitense John Hopkins, dal B7 Italy, il vertice delle principali organizzazioni imprenditoriali mondiali, organizzato a Roma da Confindustria. Insomma, la Casa Bianca dovrà ascoltarci, perché noi rappresentiamo 3 milioni di aziende statunitense preoccupate per la politica dei dazi e del neoprotezionismo. My perspective is that's why the importance of having meetings like this. I get to go home. Dal mio punto di vista è molto importante che ci siano incontri di questo tipo. Vado a casa dopo 2 giorni durante i quali ho ascoltato molte opinioni e molte questioni sono state sollevate dai miei colleghi. Posso solo dire che siamo all'inizio del processo. Dalla nostra prospettiva come Camera di Commercio americana, dico solo che abbiamo 3 milioni di aziende, da quelle piccole a quelle molto grandi, che hanno una voce e questa voce sarà sentita dal Congresso. È intervenuto anche il Presidente del Consiglio Gentiloni, che ha detto nessuna ambiguità sul libero mercato, il G7, quello di Taormina, quello importante, il più importante, non voglio sminuire gli altri, ci mancherebbe, quello dei capi di Stato e di Governo, dovrà rinnovare la fiducia nelle società e nelle economie aperte. Occorre ribadire la centralità della libertà economica, anche perché senza libertà economica non c'è alcuna possibilità di crescita e sviluppo. Dobbiamo rafforzare il consenso all'interno delle nostre società su alcuni punti fermi fondamentali. Anzitutto ribadire la centralità della libertà economica. Senza libertà economica non c'è alcuna possibilità di crescita e di sviluppo. Scommettere ancora sul libero mercato, il più grande motore di prosperità della storia. Libero mercato e libertà di commercio. Veniamo da anni di discussioni sui trattati di libero scambio, discussioni che per vari motivi sono finite in un angolo dal quale sembrano incapaci di uscire. I nostri accordi devono muovere non solo dalla voglia di aprire sempre di più le nostre economie, ma anche dall'intenzione di mettere al centro i nostri valori, quelli sui quali si sono basati decenni di crescita e di benessere. E allora su questo anche il presidente di Confindustria Boccia, attenzione a cavalcare l'ansietà, ma occorre trovare e individuare soluzioni nell'interesse di tutti. Preoccupato anche il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, oggi a margine del forum di Cernobbio. Allora ascoltiamo sia Boccia che Sangalli in sequenza. Il messaggio di oggi è non cavalcare ansietà, lavorare su soluzioni nell'interesse di tutti. Quello che dice lei, diciamo, esattamente la premura che noi segnaliamo in questo documento. Attenzione, perché quando scatta, diciamo, una politica neoprotezionistica non è mai a condizioni date, poi ha degli effetti di reazione di altri e quindi il gioco poi alla fine, diciamo, ha una sommatoria negativa per tutti. L'alert che la dichiarazione vuole dare è attenzione, perché questo comporta, diciamo, il fatto che non è che rispetto ai protezionismi di taluni non si reagisce su altri, ma invece di volare alto e di costruire una visione che dia certezza del futuro alle popolazioni e all'economia, si determina maggiore ansietà. Mi sembra che il messaggio chiaro della comunità, diciamo, dell'industria, dei paesi del G7 sia molto chiaro, e il nostro è un auspicio, perché non è che possiamo noi essere, come dire, coloro che fanno le scelte politiche, ma possiamo essere a supporto di consigli e proposte. Noi siamo gli eredi della tradizione dei mercanti italiani e di Marco Polo. Quindi noi crediamo nel principio della libertà del commercio e crediamo anche nella forza della qualità del Made in Italy. E quindi noi riteniamo che sia un grave danno per chi mette i dazi e anche per chi li subisce. Certamente mi preoccupa e mi auguro che sia soltanto un annuncio. Allora, io non so se farà bene il neoprotezionismo, vedremo quanto andrà avanti agli Stati Uniti e alle imprese americane, perché quando ti proteggi troppo, altra cosa è combattere il dumping, la scorrettezza e non avere reciprocità nel commercio, ma qui parliamo di protezionismo, di dazi e basta. Non ha mai aiutato nella storia dell'economia le aziende a essere più competitive. È una panacea, non risolve il male, ma non so se farà bene alle aziende americane. Quello che so per certo è che farà malissimo alle imprese italiane, di tutti i settori, legno arredo, agroalimentare, ciclo, motociclo e quant'altro, che esportano e hanno negli Stati Uniti un mercato fondamentale di riferimento, il più importante, diciamo, fuori da Germania e Francia, Germania e Gran Bretagna, secondo dei settori. Quindi non capisco chi in Italia inneggi al protezionismo. Facciamo come Trump, sì, bravo, così non esportiamo più nulla, e anche l'unica voce che è andata bene in questi anni ce la giochiamo. E altri, ah sì, il chilometro zero, bravo, ma il chilometro zero teniamocelo per noi, siamo esportatori netti di agroalimentare, cosa andiamo a raccontare al mondo il chilometro zero? Che se uno inizia a fare il chilometro zero nel Wisconsin non mi compro più un pezzo di grana parmigiano reggiano o di grana padano. Attenzione a ste retoriche. Comunque, grazie Mario Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione e in studio anche questa settimana. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà passarlo e trascorrerlo lavorando. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. Libera la voglia di fare.